La storia e la memoria di Dino Pesole. I diritti umani vengono prima dell'immunità degli stati. Con questa sentenza emessa nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha di fatto ribaltato la decisione del febbraio del 2012 con cui la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA aveva negato ai singoli cittadini deportati e ridotti in schiavitù durante la Seconda Guerra Mondiale, in violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, il diritto di ricorrere contro uno Stato. È un passo di notevole importanza che potrebbe riaprire il contenzioso tra centinaia di cittadini italiani e lo Stato tedesco. Se uno Stato si macchia di crimini di guerra o contro l'umanità, se lede e calpesta diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, allora il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, quel principio generalmente riconosciuto che impedisce di agire in giudizio contro un paese straniero, cede il passo alla necessità di tutelare diritti superiori. La sentenza della Corte Costituzionale, con una decisione sofferta e coraggiosa, giunta dopo due rinvii e a un mese dall'udienza pubblica, di fatto apre la strada alle vittime italiane dei lager nazisti per ottenere i risarcimenti per il danno subito. Il 3 febbraio 2012 l'AIA aveva ribadito l'immunità della Germania fissando un obbligo. Il giudice italiano deve negare d'ufficio la propria competenza nelle cause civili di risarcimento per i crimini compiuti dai nazisti in Italia. E l'Italia ha recepito tale sentenza con la legge numero 5 del 2013. Proprio su questa norma, il Tribunale di Firenze, investito dei ricorsi presentati da alcune vittime e parenti delle vittime italiane dei lager, ha sollevato dubbio di costituzionalità e la Corte Costituzionale lo ha accolto, seppure a maggioranza. Le norme che impediscono al giudice italiano di accertare l'eventuale responsabilità civile di un altro Stato per violazioni gravissime, quali i crimini di guerra o contro l'umanità, commesse nel territorio nazionale a danno di cittadini italiani, sono dunque incostituzionali, ha detto la Corte. Ledono gli articoli 2 e 24 della Costituzione, il primo dei quali tutela i diritti inviolabili dell'uomo, il secondo il diritto di difesa. Quali sono ora le conseguenze di tale pronunciamento della Consulta, anche in considerazione del fatto che il governo tedesco ha annunciato possibili azioni per far valere il principio della supremazia della propria giurisdizione? Lo abbiamo chiesto al giurista Carlo Smuraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, ci dica, quali sono le possibili conseguenze di tale importantissima sentenza? Diciamo, la prima cosa è che la conseguenza, diciamo, più rilevante e più importante è quella di principio. Cioè, la Corte dell'AIA aveva detto che sostanzialmente questo principio, per il quale, quando si tratta di diritti umani, non ci sono i limiti normali per quanto riguarda la tutela della sovranità dei singoli stati. Questo principio è di un'importanza straordinaria perché dà un valore ulteriore ai diritti umani e alla loro inviolabilità e poi stabilisce una graduatoria e dice cioè che nella sostanza la sovranità degli stati è importante e quindi va rispettata in tutti i casi meno in quelli nei quali entrano in gioco dei diritti umani, di fronte ai quali questa barriera della sovranità non può essere opposta. A me questo sembra un principio molto avanzato in generale. Come altri, avevamo notato che la sentenza della Corte dell'AIA era sul piano dei principi piuttosto ancorata a principi un po' remoti nel tempo. La società cambia, i diritti umani avanzano, le guerre cambiano, perché tra l'altro anche le guerre cosiddette tradizionali stanno diventando sempre di più quelle che proprio in un documento degli storici italo-tedeschi è stata definita la guerra contro i civili, e cioè atti e azioni compiute da militari in guerra che si rivolgono direttamente a popolazioni civili oppure non trattano, come nel caso dei famosi inimi, gli internati militari che dovrebbero essere prigionieri non li trattano come tali, ma li trattano come schiavi, perché questa sentenza, non dimentichiamolo, non riguarda soltanto quel caso, ma riguarda come principio almeno anche il caso delle stragi che sono state compiute in Italia in quegli anni. In quegli anni, ricordiamolo, dopo l'8 settembre. Santana di Stratema, ma sono tante altre in cui si sta lavorando appunto per creare un completo atlante delle stragi, che è condotto sotto la guida tecnica, direzione tecnica, la persona più esperta che c'è in Italia in materia, cioè il professor Pezzino, ed è organizzata congiuntamente dall'Associazione Partigiani d'Italia e dall'Istituto Nazionale per il Movimento di Liberazione, e che ha ottenuto un finanziamento proprio dal Ministero degli Esteri della Germania come atto, diciamo, in qualche modo riparatorio. Lo abbiamo considerato importante. È importante, sì. Molto. Presidente, c'è un problema, perché la consulta non entra nel merito della questione, però come sappiamo c'è una questione relativa ai risarcimenti. Adesso cosa accade? Cioè, saranno i giudici? I risarcimenti, credo che il problema sarà molto difficoltoso. Io ho fatto una dichiarazione, ho appena finito la sentenza, e ho detto forse non è nemmeno il caso di alimentare tante illusioni, perché sui risarcimenti la Germania si opporrà, non ho idea di cosa potrà fare, perché l'inventiva giuridica è sempre superiore all'immaginazione, perché la Corte dell'Aia non prevede un'altra Corte diversa sopra di lei, né è immaginabile un altro giudizio, ma anche la Corte Costituzionale di un paese non ha niente al di sopra di lei, almeno all'interno del suo paese. Però la Germania probabilmente osserverà, e mi pare che l'abbia già fatto, che questa è una sentenza della Corte italiana, la quale però varrà nel nostro paese. Certo. Certamente la Germania cercherà di opporsi con tutti i mezzi, e secondo me sarebbe ragionevole che non lo facesse, nel senso che siccome c'è un lavoro in corso, per creare almeno, se non una memoria condivisa, che sarà molto difficile dopo tutto quello che è successo, ma almeno una memoria collettiva, e per questo fu istituita anche questa commissione di storici italo-tedeschi che ha lavorato molto, ha prodotto un documento interessante e ha dato anche delle indicazioni per come si fa ad fare in modo che tra i due popoli non rimangano odi, ma semmai si crei almeno una memoria collettiva, in qualche modo si fa, e questo è dimostrato per esempio dal finanziamento della Unatlante, che ricostruisce tutto il quadro delle stragi, cioè un orrore, è un atto importante, e altri credo che siano in corso. Forse se si battesse, prendendo atto di questa decisione della Corte Costituzionale, piuttosto quella strada di aumentare l'ambito questi atti di riparazione che anche in altri paesi sono stati fatti, che sono altrettanto importanti. Poi chi ritiene naturalmente ha diritto di chiedere il risarcimento, e vedremo che sorti avranno, perché per i risarcimenti in sede civile ci sono non pochi problemi, tempo, per la pura richiesta di danno ci sono anche delle prescrizioni. E non ci sono se c'è stato un procedimento penale, perché allora la prescrizione diventa quella del reato e ricomincia a decorrere quando è concluso il processo. Però siamo a tanti anni di distanza, quindi immagino delle difficoltà. Difficoltà, se comunque, si battesse la strada che aveva indicato già la Corte dell'Aia, che era quella di dire, questo però non preclude la possibilità che gli stati si accordino, si incontrino fra loro, trovino delle soluzioni a conce per rispondere a questa esigenza che a quello che poteva essere un odio si sostituisca almeno una forma di una memoria che si è cercata, di una verità che si è cercato di ristabilire, e che sarebbe utile in un mondo che cambia, che procede, naturalmente continuando a rispettare poi la memoria di quelli che sono caduti, che sono morti, le loro famiglie, eccetera, che naturalmente hanno ancora un'attenzione molto viva. Certo. In conclusione, Presidente Smuraglia, si può dire che comunque la riaffermazione di un principio in questo caso è fondamentale. Poi, ovviamente, come abbiamo appena detto, la questione dei risarcimenti è un'altra, però che in sede di giurisdizione al massimo livello in Italia si riconosca che i diritti umani vengono prima dell'immunità degli stati è un fatto di rilievo. Per me è un fatto di enorme rilievo, di grande importanza. Io ero rimasto male per quella sentenza della Corte dell'Aia, proprio perché l'avevo considerata una sentenza che restava ferma, ancorata al passato, non teneva conto di un mondo che si trasforma e dove i diritti umani, già proclamati dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, stanno assumendo di fronte a un mondo in guerre perenni, di fronte alla violenza, eccetera, un ruolo ancora più importante. Che la Corte abbia detto i diritti umani sono inviolabili, inalienabili, intoccabili da ogni punto di vista, ma abbia anche chiarito, mettendolo in rapporto con l'articolo 24, che debbono essere anche resi effettivi, nel senso che al principio che non ci può essere il limite della sovranità degli stati, si aggiunge anche quel diritto di chiunque ad avere un giudice, quindi avere una decisione che è consacrata nell'articolo 24 della Costituzione. Certo. Anche questo, ribadire questo principio, È non fa per niente fondamentale. male in un mondo così teso come quello attuale. È un principio di civiltà, io lo considero di grande rilievo e che fa molto onore alla nostra Corte Costituzionale. Grazie moltissimo, Di nulla, Presidente. Grazie, buona di nulla serata. a voi.